Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Costa Azzurra e Provenza con Marco Cassardo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dove mi porterà oggi lo scrittore in compagnia del quale ho deciso di partire? Quale sarà il paese che gli sta più a cuore? Lui è Marco Cassardo. La nazione che ha scelto è la Francia. Essendo lui piemontese, un po' me lo aspettavo. E due sono le zone a lui particolarmente care. Da quale si parte allora? Da quella affettivamente più vicina, direi. La Costa Azzurra. Costa Azzurra. La Costa Azzurra, sud della Francia, è il tratto litoraneo che va da Menton a Cannes. Il suo nome si deve allo scrittore Stéphane Liégard, che nel 1887 ribattezzò così questa zona, in cui cielo e mare sembrano fondersi come per incanto. La città principale è Nizza, con i suoi quasi 500.000 abitanti, che superano il milione includendo l'estesa periferia. Il clima è speciale tutto l'anno. Luce, temperature tiepide e piogge rare. Gli eventi culturali e mondani non mancano mai, dalle sagre di paese alle feste VIP, dagli aperitivi di Saint-Tropez al Festival del Cinema di Cannes. Ma la quiete arriva nelle tante cittadine medievali dell'entroterra, dove chiese e piazzette sono piccoli gioielli. Io sin da quando avevo 5 anni, quindi sono 45, quindi sono da 40 anni che vado in Liguria, e sin da piccoli la Costa Azzurra rappresentava un pochino, come si può dire, un po' le colonne d'Ercole dell'adultità, quindi arrivare oltre il confine, arrivare nelle prime cittadine della Costa Azzurra, Menton, poi li sapevamo tutte a memoria, adesso non mi ricordo neanche più, ma Menton, Nizza, Antibes, eccetera, voleva dire diventare grandi e infatti quando eravamo 12 anni, 14 anni, si diceva non appena avremo la macchina andremo a fare un viaggio in Costa Azzurra. E infatti con gli amici del mare, quando poi il primo di noi ebbe la patente, andammo a fare un lungo viaggio, andammo 4-5 giorni in Costa Azzurra, dormivamo in macchina ed era stato veramente un passaggio importante. Siamo partiti dalla Costa Azzurra anche perché è la prima meta in ordine di apparizione anagrafica e non solo geografica per Marco, come ci ha raccontato. E poi ha un non so che di iniziatico che mi piace. La Costa Azzurra per me è, come dire, nel momento in cui da Ventimiglia si passa il confine c'è un altro tipo di clima, c'è questa maggiore eleganza che mi ha sempre colpito, questa maggiore eleganza, questa cura, questa pulizia del dettaglio, questa una specie di brillantezza. Io l'ho sempre associata a immagini di brillantezza, di effervescenza. Poi non so se mi piace di più la Costa Ligure che la Costa Azzurra, però la associo a un discorso di maggior eleganza, di maggior pulizia. Poi è vero che è più elegante, perché questo è anche un dato di fatto, però la Costa Azzurra per me ha proprio questa specificità. E poi nel corso della vita la Costa Azzurra, per una serie di motivi, io ci sono sempre tornato un po' per lavoro, perché io c'è stato un periodo in cui lavoravo in una rivista di comunicazione, si chiama Pubblicità Italia, e a Cannes c'è il Festival della Pubblicità, e quindi andavamo al Festival della Pubblicità, c'era questa cena da chez Astou, il pesce crudo, e avevo già più di 30 anni, quindi è come se la Costa Azzurra in qualche modo scandisse dei momenti della mia vita. La Costa Azzurra scandisce i movimenti della vita di Marco Cassardo fin da quando è ragazzino, e le situazioni che riesce a vivere da queste parti sanno di viaggio sentimentale, più o meno. Quando invece si era più ragazzi si andava anche in Costa Azzurra perché c'erano le donne nude nelle spiagge, cosa che in Liguria era impossibile. Quindi lungo queste, non so, la famosa Croisette di Cannes, che è imperdibile per chiunque non abbia... che non, per chiunque non sia stato, la Courgette di Cannes, quando ero ragazzo, voleva dire andare a vedere le belle donne, andare a vedere magari qualche tetta, qualche dall'alto punto della passeggiata, a sbirciare da guardoni queste ragazze meravigliose. Poi da più grande ha voluto dire il lavoro, ha voluto dire la professione. A Cannes sono stato a Nizza sempre per lavoro e sono sempre andato molto volentieri, un po' come una specie di... La Costa Azzurra è un po' come una specie di luogo d'adozione, no? Cioè io credo che ognuno di noi abbia un luogo d'origine, io sono torinese, mi sento profondamente torinese, e dei luoghi di adozione che per qualche strano motivo ti entrano dentro il cuore e ogni volta che ci devi tornare lo fai molto volentieri, ripeto, prescindere dal fatto che siano più o meno belli, perché ad esempio per me un altro luogo di adozione è Rimini è un posto che io adoro, Rimini d'inverno, ecco, uno di questi è per me la Costa Azzurra. Io quando vado in Costa Azzurra e anche in Provenza, ma più in Costa Azzurra perché la conosco forse meglio, o meglio, sono andato di più, è un po' un ritorno a casa. E dopo questo primo quadro biografico sulla conoscenza della Costa Azzurra del mio compagno di viaggio, passiamo dal cuore del ragazzo a quello dello scrittore che in questo posto ha trovato ispirazione. Poi ci sono state, come dire, ci sono anche altre cose, ad esempio ci sono, quando poi sono diventato, ho iniziato a scrivere, cioè, entrano in ballo anche delle dimensioni letterarie, no? Io credo che ai posti ci si affezioni anche, prima per degli elementi di vita personale, in secondo luogo anche per dei riflessi legati alla tua passione, nel mio caso lo scrivere, e quindi la scrittura ha sicuramente inciso moltissimo poi sui miei viaggi, sui miei innamoramenti, non so, ad esempio sono innamorato di Praga perché c'è Kafka, ma non lo dico in una dimensione esibitiva, lo dico proprio in una dimensione di realtà, nel senso che a me è piaciuto andare a Praga, ad esempio, per visitare dove Kafka lavorava, lo stesso, non so, a Lisbona per Pessoa. E mentre mi immagino Pessoa seduto al caffè a Brasileira, al bario alto della sua Lisbona, che pensa tra sé e sé, viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Chiedo a Marco cosa gli evoca la Costa Azzurra. Se io dico Costa Azzurra penso davvero all'azzurro, perché è proprio un azzurro, è un azzurro che ti entra nell'anima, è un azzurro di, è un azzurro che c'è dappertutto, c'è anche nella faccia delle persone, anche nelle persone più disparate, dai neri di Marsiglia piuttosto che Nizza, piuttosto che delle ragazze mulatte che incontro sul lungomare, però al di là di tutto c'è sempre questo azzurro brillante che è come una specie di cappello che copre i luoghi, e ho in mente molto il sole, Au jardin de mon paire ya tan beau pin, au jardin de mon paire ya tan beau pin, ya tan beau pin, mis amour, ya tan beau pin. O caio bello caio un testo mi, o caio bello caio un testo mi, un testo mi, mis amour, un testo mi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Costa Azzurra e Provenza con Marco Cassardo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oggi il colore predominante è l'azzurro. L'azzurro che, come dice Marco Cassardo, qui è dappertutto, persino nei volti delle persone. Del resto, questa prima tappa in Francia con lui è stata proprio la Côte d'Azur, luogo di iniziazione sentimentale e anche di forte ispirazione letteraria. Ma tra gli scrittori innamorati della Francia, Marco non è ovviamente né il primo né il solo. Ecco, in Costa Azzurra c'è questo bellissimo contrasto tra quelli che sono tra quelle che sono i brillantini della costa, quindi le vacanze, il lusso, la ricchezza, ma c'è anche una dimensione letteraria molto forte, non lo so, la famosa generazione perduta degli scrittori americani successivi alla prima guerra mondiale, da Scott Fitzgerald, da Lewis Passos, Hemingway, che comunque alternavano un pochino la loro vita tra Parigi e la Riviera francese, e comunque sono un'emozione letteraria molto forte, che poi per uno che comunque scrive diventa anche un'emozione di vita. Non so, Tenere la notte di Fitzgerald è ambientato in Costa Azzurra, e lo stesso Fitzgerald con Zelda, che era la sua donna, quella che è poi impazzita, ha vissuto per tanto tempo a, mi sembra, Cap d'Antibes. Sulla bella costa della Riviera Francese, a mezza strada tra Marsiglia e il confine italiano, sorge un albergo rosa, grande e orgoglioso. Palme deferenti ne rinfrescano la facciata rosata e davanti ad esso si stende una breve spiaggia abbagliante. Recentemente è diventato un ritrovo estivo, di gente importante e alla moda. Sulle parole di Tenere e la notte fermo l'immagine di una costa azzurra che ti prende l'anima, dove la facciata rosa di quell'albergo accende la passione e abbaglia i sensi, come la spiaggia che vi sta di fronte. La letteratura ha davvero un potere straordinario, amplifica la percezione e ti fa sembrare di vivere una realtà aumentata. Per cui io credo che ai posti ci si affezioni per una serie di motivi. Inizialmente c'è una dimensione personale, attorno a questa dimensione personale poi si innestano quelle che sono le proprie passioni, i propri desideri, la propria poetica, la propria lirica, se sei ad esempio un artista, che tu sia uno scrittore, un musicista, credo, vale lo stesso discorso, un pittore. Vale lo stesso discorso per chiunque, aggiungo io, chiunque abbia dentro di sé uno spirito accogliente, in grado di aprire le porte alla bellezza. Un'altra cosa importante, Mogam, che è uno dei miei scrittori preferiti, aveva comprato una villa a Cap Ferrat, che alla fine degli anni 20, tra gli anni 20 e gli anni 30, è diventato uno dei salotti letterari più importanti d'Europa. Oppure, non so, un'altra evocazione letteraria molto importante per me sono le spiagge vicino Nizza, in cui è ambientata Bonjour Tristesse della Sagan. Ecco, quindi c'è sempre anche questa componente letteraria, no? Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour. La Costa Azzurra ha una dimensione letteraria per Marco Cassardo, ma ora che ci trasferiamo nella seconda tappa, l'altra zona a lui cara della Francia, le cose sembrano essere molto simili, almeno da questo punto di vista. E lo stesso discorso vale per la Provenza. La Camargue, che è la zona sud di Arles, la zona umida della Provenza, è una zona per me estremamente letteraria. Non so dire bene perché, però questi tori e questi cavalli indolenti, questi orizzonti vastissimi della Camargue, questo clima che è anche desolato, perché secondo me è un po' un luogo comune che la Camargue è bella. Non so se è bella la Camargue. La Camargue è la Camargue, con una sua poesia che è fatta anche di desolazione. Queste spiagge vuote, c'è un po' di sporcizia, un po' di degrado, ecco. C'è un po' una poetica del degrado, secondo me, in Camargue, o perlomeno io la vivo così, ecco. Sicuramente altri potrebbero dire cose esattamente antitetiche a quelle che sto dicendo io. Io credo che si vada nei luoghi anche per ricercare una propria poetica, una propria dimensione, e quando la si è trovata si ritorna per andare nuovamente ad annusare quei profumi, quegli odori, quel clima. Provenza. La Provenza è una regione del sud della Francia attraversata dal Rodano e adagiata tra la Costa Azzurra e la Camargue. La sua capitale è Marsiglia, quasi 1 milione di abitanti, uno dei grandi porti del Mediterraneo. In Provenza si parla provenzale, non un dialetto, ma l'antica lingua d'oc. Il clima è privilegiato, con estati calde e secche e inverni dolci vicino alla costa, ma il Mistral, il freddo vento del nord, ha costretto i provenzali a costruirsi case senza finestre in quella direzione. Nella parte centrale e mediterranea la vegetazione è di tipo stepposo, mentre la parte più orientale e quella alpina diventano più verdi e umide. Sterminati i campi di lavanda e di papaveri, vigneti da cui si estrae il succo dei famosi vini Côte de Provence, villaggi arroccati sulle colline, rovine romane, tipiche stradine acciottolate e gradini conducono agli usci colorati delle case di pietra. La Provenza è la terra dei mille profumi. Dalla Costa Azzurra siamo approdati alla Provenza, altra zona estremamente letteraria, come l'ha definita Marco Cassardo, che qui ha trovato una sua poetica dei sensi. Quando un compagno di viaggio mi parla di sollecitazioni sensoriali, mi piace, perché mi faccio trasportare emotivamente dai colori che mi descrive, dai profumi, dai suoni, e con le sue parole che ricostruiscono immagini filtrate dal corpo, parto davvero. Dopo la poetica della letteratura, ora arriva quella della pittura. Van Gogh, in una lettera a Theo, il fratello, diceva una cosa bellissima, che adesso non ricordo perfettamente, però gli diceva che lui dipingeva i cipressi neri perché i cipressi sono neri di notte, e questo è bellissimo. E quindi per me, ad esempio, io in mente quella, passando adesso alla Provenza, io sono molto affezionato alla zona di Arles, Saint-Rémy, questi luoghi vicino a Arles in cui sono andato più volte, anche per vedere un museo di Van Gogh, una mostra di Van Gogh, per vedere l'anfiteatro, eccetera. Però ecco, se devo pensare, ho in mente questi, perché poi sono andato a cercarmeli con gli occhi, appunto come dicevi tu, con i sensi. Occupano ossessivamente i miei pensieri. Mi stupisce che ancora non siano stati dipinti così come li vedo io. I cipressi hanno una bellezza e un'armonia di linee e proporzioni paragonabili a quelle di un obelisco egizio. Van Gogh e i suoi cipressi, anche questo è la Provenza. Chissà se prima del suo soggiorno ad Arles si parlava comunque di questi alberi associati a questa zona geografica. O forse, come dirà Oscar Wilde anni dopo, non esisteva nebbia a Londra prima che Whistler la dipingesse. E c'erano sicuramente meno cipressi in Provenza prima che Van Gogh li immortalasse nelle sue tele. La Provence. Dans les villages de Provence, quand la nuit n'est providence, les cigarettes illuminent nos ruelles, tout va bon train, les amours, les querelles. J'ai les fenêtres bien ouvertes, les volets à moitié abattus. J'entends tout, je suis votre prêtre, oh croyez-moi, je vis dans ma rue. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Costa Azzurra e Provenza con Marco Cassardo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo in Provenza con Marco Cassardo dopo essere stati in Costa Azzurra. Entrambe zone della Francia a lui molto care per motivi affettivi, ma anche letterari. Nel caso della Provenza siamo passati a una poetica dei sensi che, se nella prima tappa era affidata a Fitzgerald di Tenera e la notte o alla Sagan di Bonjour Tristesse, adesso è più vicina alla pittura e Van Gogh la fa da padrone. Però, ad esempio, questo cielo nitido della notte e questi cipressi scuri, queste macchie scure, perché sono macchie scure, cioè io queste macchie scure che si stagliano in questo cielo nitido. Ecco, io questa è una delle cose, delle emozioni più intense che ho avuto. Io credo che i quadri di Van Gogh, per vederli, per capirli, devi andare lì, perché ho anche queste, non so, un'abbazia che aveva dipinto, adesso non mi ricordo. È come se avessi avuto la sensazione che Van Gogh fosse meno visionario di quello che si dice, nel senso che lui semplicemente riproduceva quello che vedeva. Non è, poi certamente c'erano i campi di grano, il campo di grano con il volo dei corvi, Senza dubbio c'era la sua dimensione folle e geniale, però se tu vai in Provenza, quei colori, quelle luci così accecanti, ecco, se io dovessi parlare con gli occhi, ho in mente questi contrasti violentissimi tra i colori, questi blu, questi viola, questi gialli, ho in mente queste luci fortissime, questi colori che non ammettono vie di mezzo, sono dei tagli, degli squarci questi colori, no? Non ci sono confusioni di colori, non ci sono accavallamenti di colori, zone grigie, zone d'ombra, ci sono sempre colori estremamente violenti. A volte penso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. Come dare torto a Marco? La Provenza è nei colori dei quadri di Van Gogh? Per me è un po' questa la Provenza. Il profumo della Provenza è un profumo che è un po' un profumo di bocce, un po' un profumo delle trattorie, un po' un profumo della lavanda, perché ci sono tantissime Provenze. C'è la Provenza dei piccoli porti, c'è la Provenza dei villaggi barbicati sulle rocce, c'è la Provenza romana, Arles, Nîmes, Avignon. È molto difficile parlare di Provenza perché ci sono tante Provenze. Ma con questo denominatore comune della luce, della violenza dei colori, ecco, è un luogo che ha anche questa meravigliosa qualità di regalarti questa contraddizione tra una dimensione sonnolenta dell'esistenza, quieta, una specie di tran tran lento del vivere, e questa natura così forte, così prepotente. E secondo me per capire un pochino la Provenza e questa sua dimensione fatta di contrasti e contraddizioni, è molto importante stare lì un po' di giorno, stare un po' di tempo, perché soltanto così riesci a entrare in quella dimensione lì. Provenza è mare il suolo, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò, di Provenza è mare il suolo. Contrasti e contraddizioni, questa è la Provenza per Marco, insieme alla sua luce che rende i colori così vivi e ai suoi profumi che ubriacano. Quella stessa Provenza che è entrata in uno dei suoi libri, del quale adesso mi vuole leggere un passo. Dopo la serata al casinò, Dario se l'era svignata in Francia e si era fermato in Camargue, in una pensione dalle parti di Aigues-Mortes. Non si era fatto vivo con nessuno, né qualcuno si era fatto vivo con lui. Lunghe passeggiate tra il mare e l'entroterra, attorno soltanto cavalli e sciabolate di luce bianca, gli occhi sempre allerta a prevenire pericoli. Per una settimana non aveva aperto bocca. Qualsiasi parola, tra l'altro in lingua straniera, poteva venire fraintesa. Con i camerieri delle bettole dove si fermava a pranzare, si esprimeva con cenni del mento e muovendo le dita sul menù. Con la proprietaria della pensione dove pernottava, non una parola. Soltanto qualche sorriso per non attirare l'attenzione. Un uomo con gli occhi bassi a schivare sguardi desta sospetti. Poi il tempo era cambiato, una strana foschia era scesa sulla Camargue. Dario lasciò Aigues-Mortes all'alba e tornò a Torino. Era diminuita la visibilità, il cielo si era fatto lattiginoso, il mare era una macchia nera. L'incendio di luce che lo aveva accolto qualche giorno prima, con tutti gli spigoli e i dettagli dell'ambiente a farsi osservare nella loro nudità, si era estinto. C'era un clima di mimetizzazione, il contrasto tra i colori dell'entroterra e quelli della costa si era attenuato. La Camargue aveva assunto le sembianze del suo appartamento. Ecco, ad esempio, questo pezzo di tratto da Va a finire Kennedica, che è il mio primo romanzo, non è stata casuale la scelta della Camargue, perché è la storia di due fratelli, uno dei quali è un paranoico, nel senso che si sente perseguitato, sente che tutti si sente in pericolo, un uomo in pericolo, e fugge dalla sua dimensione quotidiana e prende la macchina, si lascia andare l'acceleratore e si ritrova in Costa Azzurra e poi in Camargue. Ecco, quindi il fatto di aver scelto la Camargue per farlo fuggire per qualche tempo è sintomatico di quello che dicevo prima, no? Un luogo dove ti disperdi, dove ti mimetizzi con l'ambiente, questi prati, questo mare, questa sabbia, questa spiaggia, questi cavalli, questi tori, un po' un luogo in cui perdersi e magari ritrovarsi. Quindi non è stata una scelta casuale, mi è venuta spontanea, ho pensato subito alla Camargue. Una scelta istintiva, mi verrebbe da dire, come se proprio lì Marco avesse ritrovato quella dimensione personale che si è mescolata con gli anni a quella più letteraria. Una specie di matrice cui aderire perfettamente, un alfabeto dei sensi che reclamava la sua grammatica umana e che finalmente l'ha trovata. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Costa Azzurra e Provenza con Marco Cassardo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. È stata la Costa Azzurra e a seguire la Provenza a fare da sfondo al quadro che Marco Cassardo ha abbozzato per me in questa chiacchierata. Quadro che ha influenze diverse, da Fitzgerald a Hemingway, da Van Gogh alla natura, dalla gente che si incontra per strada a quella che ha solcato queste strade prima di noi e che vi ha lasciato un segno. Insomma, è una terra affollata di stimoli e suggestioni per uno scrittore, per un artista e per una persona dedicata al bello in genere. Se a questo aggiungi che sei torinese, come prosegue Marco, allora il mix è davvero esplosivo. Provenza mi viene in mente una discreta gentilezza, una discreta un atteggiamento abbastanza sobrio. Mi viene in mente una signorilità silenziosa, ecco. Io sono torinese, dei torinesi si parla spesso del loro understatement, della loro riservatezza. Ecco, sicuramente io mi trovo meglio in Provenza che, non so, in Marocco, in Campania, ma non per altro, perché sono più simile, quindi sono più silenzioso. Diciamo che sia la Costa Azzurra che la Provenza non sono luoghi da pacche sulle spalle, non sono luoghi da amiconi, non sono luoghi così chiassosi o rumorosi. Io amo tutti questi luoghi qui, infatti oltre alla Provenza, la Costa Azzurra, per motivi completamente diversi, adoro la Scozia, adoro questi posti un po' riservati, un po' sulle loro. Poi non è una questione di nord e sud, perché la Costa Azzurra e Provenza sono sud e Scozia è nord per certi versi. Per Marco si può benissimo adattare la frase di George Bernard Shaw: per vivere piacevolmente a Torino basta trascorrere l'inverno sulla Costa Azzurra, l'estate in Scozia e il resto dell'anno nel proprio letto. In Provenza io ho in mente molto silenzio in Provenza, e poi abbiamo una cosa fondamentale della Provenza è il Mistral. Il vento della Provenza, che Mistral è maestro, e quindi è questa specie di guida della tua vita, del tuo passeggiare, del tuo camminare, del tuo vivere in Provenza, è questo suono del vento. E il vento non è soltanto un suono, è anche un profumo, è anche un'emozione, questo vento in faccia, questo vento che solleva mare, che solleva asfalto, che solleva prati. Ecco, il vento direi che è veramente un denominatore comune, è come un suono che ti accompagna, una musica, il vento. Il vento è il respiro di questa terra, il suo essere viva e vibrante, il vento che muove e commuove. Questo viaggio mi sta facendo venire la pelle d'oca. Al vento si deve dire sempre di sì, perché il vento coinvolge il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, insomma, è un fenomeno atmosferico emotivo, se così si può definire, che ti avvolge e ti seduce. E allora mi tuffo nel Mistral sulle parole di Marco. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi. Des parfums de fenouil, melons et céleri, Dopo un overdose di sollecitazioni sensoriali fra i colori dei cipressi di Van Gogh e il Mistral che mi ha accarezzato l'anima col suo respiro, adesso sono pronta per tornare su questa terra e chiedere al mio accompagnatore, visto che siamo alla fine, detto che tutta la Provenza è splendida, se ci sono luoghi che uno non può davvero perdersi. Ma una cosa che a me ha impressionato tantissimo, che è rimasta impressa ed è veramente un'emozione molto violenta, è il muro di teatro, è il muro di scena del Teatro di Orange, che è il muro di scena romano più meglio, unico che è stato conservato così bene. Ed è veramente imponente, quella è un'emozione forte, ma ci sono emozioni così forti, nel senso i vari anfiteatri di i due Nîmes e Arles, Avignon, la città papale. Però io credo che la Provenza romana, che è così importante e che è così meravigliosa, sia meno, come si dice, sorprendente per noi italiani, perché noi siamo italiani, quindi abbiamo Roma, per cui io non senz'altro è straordinaria, senz'altro è straordinaria e regala ambiente, regala emozioni forti anche la Provenza romana, però la Provenza che a me, che io ho più nel cuore, è la Provenza un po' più di natura, quella della lavanda piuttosto che dei campi di grano, piuttosto che dei, come dicevo prima, dei cipressi di Van Gogh, di questi colori, le piccole abbazie, una Provenza un po' più intima e con una minor densità anche di popolazione, perché comunque, non so, io credo che Arles, Nîmes, Avignon nei mesi estivi, nei momenti di vacanza siano, cioè tutto sommato se si evitano è meglio perché c'è troppa gente, quindi se si va bisogna andare fuori stagione, mentre invece l'altra Provenza, la Provenza più intima, in qualsiasi momento dell'anno è straordinaria, ti accoglie. E l'accoglienza è alla base di tutto il bello. Ma siamo davvero arrivati alla fine di questo viaggio, dalla Costa Azzurra, con tutti i suoi rimandi letterari, passando per il silenzio e i colori della Provenza con i suoi cipressi. Non ci resta che salutarci. Marco però mi vuole lasciare con un aneddoto che riguarda la sua adolescenza e il suo viaggio sentimentale fatto da queste parti, quando con gli amichetti si spingeva oltre Ventimiglia per respirare l'ebbrezza di una certa libertà francese. Quando eravamo ragazzini era un pochino come se le conquiste avessero una specie di punteggio. Questo non era detto, non era espresso, però era una specie di valore sottinteso, quindi riuscire a sedurre e a baciare una ragazzina di Spotorno aveva molto meno valore che riuscire a farlo a Nizza o a Menton, cioè a Menton valeva 100 punti, a Albissola 10, quindi quelle volte che dopo i 18 anni si è andati a Saint-Tropez, Cannes, Menton, Villefranche, dove avevamo tutte le nostre tappe, chi riusciva a far centro con una ragazzina francese era un fenomeno. Questo e poche volte ci siamo riusciti, perché comunque non era facilissimo. Non era facilissimo? Beh, sorrido e mi rivedo Alberto Sordi nel film Costa Azzurra, che proprio su queste spiagge fa l'istruttore di ginnastica, idolo di un gruppo di attempate signore, e ha la certezza della conquista quando si tratta di giovani donne. Sarà la spavalderia italiana o la terra accogliente di cui ha tanto parlato anche il mio accompagnatore di oggi? E potrà diventare bella come la signorina. Le piace? Non lo so, ma io piaccio di sicuro a lei. Oh, lei piace a tutte. Patience, regime, volonté, le dico d'air. E bien, anche per oggi la lezione è finita. Ora Marco Cassardo è in libreria con Mi manca il rosso, Cairo Editore. Si la Maritza coulait du côté de Saint-Paul-de-Vence, des Balkans jusqu'en Provence. Alors les lavandes parfumeraient les plaines. Compagni di viaggio. Testi di Morena Rossi, voce di Adele Pellegatta.